Capitolo 85. Narciso. Narciso era un Tespio, figlio dell'azzurra ninfa Liriope, che un giorno il dio del fiume Cefiso aveva avvolto nelle liquide spire delle sue acque e violata. Il veggente Tiresia disse a Liriope, la prima persona che l'avesse mai consultato, «Narciso vivrà fino a tarda età, purché non conosca mai se stesso». Chiunque si sarebbe innamorato di Narciso, e quando egli ebbe raggiunto i 16 anni si era già lasciato alle spalle una schiera di amanti respinti da ambo i sessi, poiché era caparbiamente geloso della propria bellezza. Tra gli altri spasimanti vi era la ninfa Eco, che non poteva più servirsi della propria voce se non per ripetere stupidamente le ultime parole gridate da qualcun altro. Così fu punita per aver distratto Era con lunghe favole mentre le concubine di Zeus, le ninfe della montagna, sfuggivano ai suoi occhi gelosi e si mettevano in salvo. Un giorno, mentre Narciso si preparava a tendere reti per i cervi, Eco lo seguì in una impenetrabile foresta, desiderosa di rivolgergli la parola, ma come al solito non poteva parlare per prima. A un tratto Narciso, accortosi di essere ormai lontano dai suoi compagni, gridò: «C'è qualcuno qui?» «Qui», rispose Eco, lasciando Narciso assai sorpreso, perché non si vedeva anima viva. «Vieni, vieni! Perché mi sfuggi? Perché mi sfuggi? Raggiungimi qua, raggiungimi qua!» Ripeté Eco gioiosamente, balzò fuori dal suo nascondiglio per abbracciare Narciso. Ma egli la respinse in modo brusco e fuggì. «Morirò prima che tu giaccia con me!» egli gridò. «Che tu giaccia con me!» ripeté Eco lamentosamente. Ma Narciso era sparito ed Eco trascorse il resto della sua vita in valli solitarie, gemendo d'amore e di rimpianto, finché di lei rimase soltanto la voce. Un giorno Narciso mandò una spada ad Aminio, il suo spasimante più acceso, da cui prese il nome il fiume Aminio, un tributario dell'Elisso che confluisce nell'Alfeo. Aminio si uccise sulla soglia della casa di Narciso, invocando gli dei perché vendicassero la sua morte. Artemide udì quel grido di dolore e fece sì che Narciso si innamorasse senza poter soddisfare la propria passione. A Donacone, nella regione di Tespia, egli si avvicinò un giorno a una fonte chiara come l'argento, né mai contaminata da armenti, uccelli, belve o rame caduti dagli alberi vicini. Non appena Narciso, esausto, sedette sulla riva di quella fonte, si innamorò della propria immagine. Dapprima tentò di abbracciare e baciare il bel fanciullo che gli stava dinanzi, poi riconobbe se stesso e rimase per ore a fissare lo specchio d'acqua della fonte, quasi fosse incantato. L'amore gli veniva al tempo stesso concesso e negato, e gli si struggeva per il dolore e insieme godeva del suo tormento, ben sapendo che almeno non avrebbe tradito se stesso qualunque cosa accadesse. Eco, pur non avendo perdonato Narciso, soffriva con lui. Ripeté dunque il disperato ahimè che Narciso pronunciò trafiggendosi il petto con la spada e le parole che mormorò spirando: «O giovane invano amato, addio!» Dalla terra inzuppata del suo sangue nacque il Narciso bianco dalla rossa corolla, da cui si distilla ora l'unguento balsamico di Cheronea. Tale unguento è raccomandato per le malattie dell'orecchio, benché possa provocare dei mali di capo, come vulnerario, e per la cura dei geloni. Il Narciso, che anticamente si intrecciava nelle ghirlande di Demetra e di Persefone, chiamato anche Leirion, era l'azzurro fleur de lis o fiordaliso sacro alla triplice dea e che si intrecciava nelle ghirlande quando si dovevano placare le tre solenni o erinni. Fiorisce nel tardo autunno, poco prima del Narciso del poeta, e forse per questa ragione l'Iriope è stata descritta come la madre di Narciso. Questa favoletta morale, che serve incidentalmente a spiegare le virtù medicamentose dell'olio di Narciso, un noto narcotico, come implica la prima sillaba del nome Narciso, fu probabilmente tratta da una raffigurazione che mostrava il disperato Alcmeone o d'Oreste che giaceva incoronato di fiordalisi presso una fonte dove sperava invano di purificarsi dopo aver assassinato sua madre. Le erinni, infatti, non si erano lasciate placare. Eco, in questa scena, rappresentava l'ombra ironica della madre e Aminio l'ombra del padre, pure assassinato. Ma Issus, come Intus, è una terminazione cretese. Sia Narciso sia Giacinto pare fossero i nomi di un cretese eroe fiore primaverile per la cui morte la dea piange, come si vede su un anello d'oro all'acropoli di Micene. Altrove Narciso viene chiamato Anteo, un soprannome di Dioniso. Inoltre il fiordaliso era l'emblema del re di Cnosso. In un affresco rinvenuto tra le rovine del palazzo, egli cammina con lo scettro in mano in un campo di fiordalisi, con una corona di fiordalisi in capo e una collana di fiordalisi al collo.